Nel Covid ci sono i divari più importanti, soprattutto che attraverso la nostra comunità, nelle questioni di genere. La popolazione si divide purtroppo con divari molto importanti anche nella nostra città. A livello nazionale i dati Istat lo certificano. Intanto dicono che più del 60% dei lavori di cura dei figli è affidato alle donne all'interno di una coppia. In particolare quando le persone sono occupate del 60%, entrambi genitori, ma quando si parla di disoccupazione, in particolare del fronte femminile, questo dato sale al 75%. E quindi sono i più fragili che si devono prendere cura dei più forti nell'economia di ogni giorno. Di più ancora nel Covid, dove a perdere il posto di lavoro sono state prevalentemente le donne, che sono circa un 32% della popolazione lavorativa, ma alla fine di questa crisi si conta che saranno più del 50% tra i disoccupati. Sono dati di una chiarezza disarmante che più volte noi ci ma che nel Covid hanno subito un'accelerazione molto forte. Per questo motivo noi pensiamo che il lavoro concreto da mettere in campo per un piano sull'uguaglianza nella nostra città, oltre che a creare un'alleanza per affrontare questi problemi in maniera seria, un'alleanza politica e culturale, perché bisogna convincere anche le istituzioni, la politica, i cittadini, le imprese che bisogna andare in questa direzione. A mio parere si dovranno in particolare soffermare su quattro punti. Innanzitutto che i dati sono importanti e un'amministrazione comunale non può non lavorare dai dati. Parlare di dati significa partire dalle persone. Noi dobbiamo ascoltare gli individui, dobbiamo ascoltare la comunità e poi dobbiamo saper rappresentare questo ascolto anche attraverso i dati e la trasparenza dei dati. Quindi un governo della città che parta dai dati, particolari dati sulle disuguaglianze e sulle fragilità. Secondo punto riguarda l'educazione civica e la promozione della cultura di genere. Questo deve essere fondamentale. Vale in particolare per gli uomini che chiaramente hanno subito e stanno subendo la crisi del Covid come le donne, ma in maniera differente dalle donne, e che presi dallo stress della pandemia, dal lavoro, non possono dimenticarsi che accanto hanno delle donne o che nel loro luogo in famiglia, come casa, come nel posto di lavoro, e che appunto su di loro pesa maggiormente il carico familiare, così come quello lavorativo e anche della crisi che stiamo vivendo. Quindi questo lavoro culturale va fatto innanzitutto tra gli uomini, va fatto tra le istituzioni, che non devono mettere in secondo piano, ma anzi devono mettere questo tema in alto nell'agenda, va fatto sui media, va fatto dappertutto, anche nei territori progressisti come Bologna e l'Emilia Romagna. Il secondo punto è quello di riprogettare lo spazio pubblico da questa prospettiva. Lo abbiamo scritto anche insieme ai saggi che il sindaco ha incaricato nell'osservatorio sulla pandemia. Ci sono città che hanno ripensato la propria mobilità a partire dalle questioni di genere e delle disuguaglianze. Ci sono città che in questa pandemia hanno anche ripensato in fretta le piste ciclabili, come peraltro anche Bologna, o il proprio modo di muoversi all'interno della città. Ecco, a partire dai dati e dalla priorità della lotta alle disuguaglianze, noi dovremo ripensare lo spazio pubblico, che significa lo spazio fisico, i giardini, le piazze, le biblioteche, i luoghi di lavoro, ma anche il modo con cui si attraversa e si accede a questo spazio pubblico, quindi l'accessibilità e la mobilità. Bologna è una città dove il trasporto pubblico è molto dedicato ad raggiungere il centro storico e andare via dal centro storico, troppo poco dedicato, quasi per nulla, ad attraversare i quartieri, a collegarli, a congiungere la prossimità. E questo incide in particolare nel periodo di Covid, dove le persone devono stare a casa o in smart working, e se devono uscire hanno bisogno di trasporto pubblico, hanno bisogno di piste ciclabili, hanno bisogno di trasporti accessibili e non possono averli nella prossimità, nel proprio quartiere. Questa disuguaglianza incide sicuramente sui più anziani, incide sui più piccoli, incide sulle donne che per adesso hanno questi carichi addosso in maggioranza rispetto agli uomini. Il quarto punto è quello di immaginare dei servizi capaci per rispondere ai bisogni della popolazione più fragile. In questa prima iniziativa indaghiamo la questione di genere, ma potremmo parlare degli anziani, affrontare ad esempio l'educazione digitale verso la terza età. Parlare di anziani non significa parlare solo di un tema che adesso è sulla bocca di tutti, ma significa pensare al futuro. Quando si parla della violenza in casa, dello stalking, quando si parla delle violenze verso i più fragili, si parla di donne troppo poco, ma non si parla assolutamente di anziani. Ecco, io credo che far emergere i dati significhi far emergere una consapevolezza di quello che è la vita quotidiana di ognuno di noi. Io credo che la prospettiva di città che noi dobbiamo costruire debba essere fondata su un'alleanza attorno a questa consapevolezza e a questo tipo di impegno. L'amministrazione ha lavorato molto, non a caso in questa prima iniziativa interverremo io e Susanna Zaccaria, che su diversi argomenti, dai temi dello sport alla cultura, l'immigrazione e il lavoro, abbiamo lavorato anche con i nostri colleghi, quindi Bologna è sicuramente a livello metropolitano e italiano una città che ha delle cose da dire perché le ha fatte, così come le imprese bolognesi hanno fatto delle cose che possono essere portate avanti a livello pilota, ma il nostro compito è continuare ad innovare per affrontare i bisogni nuovi e soprattutto uscire dal Covid, perché ne usciremo, sarà importante se noi capiremo che la politica ha un compito, non quello di offrire solo dei sussidi, dobbiamo offrire certamente degli ammortizzatori, ma quello di affermare dei diritti, e quindi bisogna tornare a fare leggi, buone leggi, buoni provvedimenti, non si può semplicemente governare in chiave esecutiva. Il Parlamento, le assemblee, i luoghi democratici sono importanti non solo perché le persone votano, ma anche perché chi va in questi luoghi ha un potere legislativo. Il potere legislativo è il potere di chi vuole affermare i diritti, per rendere le persone più uguali. Per rendere le persone più uguali non basta semplicemente dare un sussidio, bisogna costruire un'idea di società diversa dove i diritti vengono tutelati e promossi. È solo una legge lo può fare.